senso di fatica. Qualsiasi cosa dica si perde dentro al vento, e all'ultimo momento resto senza via d'uscita. Rimango scettico di fronte alle persone e mi stupisco della loro depressione. Affrontano la vita a loro propinata, che è tutta una spirale fatta solo di finzione. Non ci riesco a starmene tranquillo, ed è per questo che continuo a dirlo, che ciò che conta non è nell'apparenza, ma è nella sostanza con la quale mi ribello. Guardo il cielo con i piedi per terra, resistendo al sistema, combattendo sta guerra. Tra chi studia, lavora, chi canta, chi suona, chi affronta la vita sempre prima persona. Allora guardo il cielo con i piedi per terra, resistendo al sistema, combattendo sta guerra. Tra chi studia, lavora, chi canta, chi suona, chi affronta la vita sempre prima persona. Allora passione, impegno e dedizione, insieme a questa penna la mia carta è un'arma bianca, di certo non uccide ma sveglia le persone, è un'occasione la nostra che non si può sprecare, dobbiamo eliminare il mare tra dire e fare, dobbiamo dare ai sogni un volto, sudare molto, andare avanti a camminare. Ti senti piccolo come una formica, ti senti stupido e ti ammazzi di fatica, se ciò che conta non è nell'apparenza, è nella coerenza con cui affronti la tua vita. Guardo il cielo con i piedi per terra, resistendo al sistema, combattendo sta guerra. Tra chi studia, lavora, chi canta, chi suona, chi affronta la vita sempre prima persona. Allora guardo il cielo con i piedi per terra, resistendo al sistema, combattendo sta guerra. Tra chi studia, lavora, chi canta, chi suona, chi affronta la vita sempre prima persona. Allora guardo il cielo, mi ci metto sotto, vedo come mi va. Guardo il cielo, mi ci metto sotto, vedo come mi va. Guardo il cielo, mi ci metto sotto.